Iniziamo questa settimana che è la settimana del post Festival di Sanremo. Allora, è stato un Sanremo molto particolare, un Sanremo senza pubblico, un Sanremo criticato, ma anche un festival che ci ha portato tanti nuovi ascolti. Quando abbiamo ascoltato le nuove proposte, in particolare, ci sono state diverse canzoni che ci sono piaciute e dobbiamo dirlo, non siamo stati imparziali. Infatti abbiamo un po' tifato per la nostra regione e ci è dispiaciuto purtroppo vedere degli artisti che sono usciti un po' alla prima serata, ma con una canzone che a noi ha colpito tantissimo. Stiamo parlando dei Dell'Ai e con noi c'è Luca. Ciao. Ciao Luca, grazie per essere qua con noi a Radio Città Fujiko. Tu sei Luca di Io sono Luca, la vostra canzone che è stata in gara appunto a questo Festival di Sanremo. Sono Luca di Io sono Luca, speriamo che questa canzone possa veramente fare il giro. Come hai detto bene te, è stato un festival abbastanza criticato, però... Che festival sarebbe senza critiche, no? D'altronde è giusto che sia così anche. Beh, infatti il Festival di Sanremo è fatto anche un po' per questo, dopo tutto, no? Certo. Per dare un po' il fianco anche alle critiche, ma ci piace certo. Molto perché negli ultimi anni abbiamo visto che ha aperto le porte anche a tanti artisti molto giovani. Com'è stato intanto andare al Festival di Sanremo? Perché il vostro esordio comunque non è, cioè la vostra carriera musicale effettivamente non è così anziana, tra virgolette, no? È una carriera musicale molto recente, arrivare al Festival di Sanremo è già un gran traguardo. Sì, abbiamo iniziato col botto, diciamo, sì, in realtà io e mio fratello scriviamo da quando siamo piccoli, proprio dagli 11-12 anni. Abbiamo sempre scritto, io ho frequentato il conservatorio, lui ha frequentato scuole di canto, ha fatto liceo musicale, quindi la musica ci ha sempre accompagnato un po' nella vita. Poi ci siamo iscritti all'università, io economia, lui architettura, e c'è capitata questa opportunità dopo un anno che avevamo cominciato a fare musica insieme, perché noi circa un annetto fa avevamo cominciato a mettere insieme i nostri pezzi, che in realtà però scriviamo da soli. Ma infatti io ti volevo chiedere un po' com'è il vostro procedimento, perché appunto mi dicevi che fate tutti e due l'università, quindi immagino in due città diverse e, sì. Ed è stato anche un anno un po' difficile appunto per i movimenti, per incontrarsi, per lavorare assieme. Com'è stato lavorare in quest'anno in particolare? Ma fortunatamente io ringrazio le nuove tecnologie perché sono veramente grata alle nuove tecnologie che ci hanno permesso di lavorare. Il primo pezzo addirittura è stato, si chiama Non passano gli aerei, ed è stato registrato ero all'università, ero a Roma, e l'ho registrato in camera, nella mia camera dove vivo proprio, che è una camera normale a Roma, appendendo microfoni a soffitto e muri con scotch e eventuali altri oggetti. Poi fortunatamente l'ho mandata in studio e lì l'hanno sistemata e messa a posto. Però diciamo che abbiamo fatto un po' dei salti mortali, anche per quanto riguarda il Festival di Sanremo, per partecipare. È stata dura comunque anche essere tamponati, stare in isolamento comunque, perché da quando l'abbiamo saputo noi ci siamo messi in isolamento per non contrarre il Covid, per non correre il rischio di far saltare il festival, ecco. Poi in realtà il Covid l'abbiamo preso comunque, e poi proprio pochi giorni prima del festival, perché era il 7 febbraio, c'è stato un caso in etichetta che si è diffuso e l'abbiamo preso quasi tutti, della gente che doveva venire su Sanremo. E fortunatamente il 22 di febbraio abbiamo fatto l'ultimo tampone che era risultato negativo e siamo partiti per Sanremo. Quindi supereroi, siete riusciti a sconfiggere anche il Covid pur di arrivare sul palco dell'Ariston, insomma. Sì, esatto. Sì, poi diciamo che questo Covid ci ha tolto parecchie cose, perché è una dedica che noi abbiamo fatto e che ci sentiamo di fare ogni volta che citiamo il Festival di Sanremo, perché è molto importante noi dedicarlo, comunque sia andato, a nostro nonno, che un mese fa lui ha contratto il Covid e purtroppo non ce l'ha fatta a sconfiggere questo virus così infame, e noi siamo partiti per Sanremo convinti che nostro nonno ci avrebbe aiutato. Beh, insomma, è stata una bellissima dedica e beh, vi ha aiutato in un qualche modo perché siete riusciti ad arrivare su questo palco, no? Quindi sicuramente c'è il suo zampino. Quasi viene giù il cielo e qualcuno continua a parlare, a dire che la guerra è brutta e che è difficile ricostruire. Ma ho visto castelli di carte cadere senza fare rumore. Sapessi quante bombe gli hanno centrati prima di farli cadere. Luca ha una scusa buona per ogni suo sbaglio, tipo che è costantemente in ritardo. Pare Schumacher che vola traguardo, una testa a metà e una fissa col calcio. E si vergogna tra gli altri a parlare, da quando suo padre non torna a Natale. Ha paura di uscire dai treni affollati, di amare una donna, restare incollati. Però Luca in fondo con gli amici sta bene, non si vergogna quando deve parlare, ha una chitarra ma non sa suonare. Disegni pregi sopra il costume che gli hanno fatto indossare. Luca nasconde castelli di carte, ali di garzone per poter volare. Luca da forza di cadere ha imparato a planare. Luca ha una testa vuota ma c'è tanto dentro, la vita gli ha insegnato tutto ciò che sa. E spesso in mezzo a tutti si sente diverso, si nasconde dietro le spalle strette che ha. Mentre l'oroscopo ripete che ha Saturno contro, si sente fuori posto all'università. Collezionando vinili di Dalle Battisti, gli schiaffi e di sogni, una testa a metà. Però Luca in fondo con gli amici sta bene, non si vergogna quando deve parlare, ha una chitarra ma non sa suonare. Disegni pregi sopra il costume che gli hanno fatto indossare. Luca nasconde castelli di carte, ali di cartone per poter volare. Luca che a forza di cadere ha imparato a planare. Guarda, io sono Luca. Com'è stato partecipare? Io volevo un po' chiederlo perché noi ovviamente l'abbiamo seguito tutte le sere, questo festival l'abbiamo commentato, c'è stato un pubblico di palloncini per una sera, questa cosa sì. Un pochino strana, ma com'è stato salire su un palco così grande, così maestoso come quello dell'Ariston, però non avere pubblico davanti? Ma allora, prima permetto di fare una cosa, ci sono state ogni cosa che facevano Corazzi era una critica. Prima le sedie vuote, critica sedie vuote, poi hanno messo i palloncini, critica i palloncini, non andava bene niente, non andava bene. Noi abbiamo fatto proprio, ci siamo esibiti proprio la sera dei palloncini, per definire un po' com'era. Però ti dico la verità, lì sei così emozionato e così preso dal momento e dalla situazione, che poi. Cioè, non te ne rendi neanche bene conto di quello che c'è davanti, se sono sedie vuote, se sono palloncini. È ovvio che se ci fossero state le persone si sarebbe creato un collegamento in diretta, no? Diciamo, con la platea, che purtroppo ahimè non c'è stato. Ma prima del festival, voi comunque, avendo iniziato a suonare da poco, avete avuto modo di fare dei live... diciamo in cui avete presentato le vostre canzoni o manca ancora questo pezzo? In realtà insieme pochi, cioè insieme nessuno fondamentalmente, perché non ci siamo, appunto siamo giovani, come progetto, e non era capitato ancora di fare dei live insieme. La prima cosa credo sia stata quando siamo andati al concorso di Aria Sanremo per entrare al Festival di Sanremo. Quella lì è stata un po' la nostra prima esibizione insieme alle audizioni. Poi dopo c'è stato il concorso di Ama Sanremo alla fine della metà dicembre, e poi il palco dell'Ariston. Sono questi tre i palchi che abbiamo calcato insieme, ecco. Ok, comunque la vostra esibizione è stata molto bella, molto toccante, dovuta anche sicuramente al testo della canzone. A noi in particolare è piaciuto tantissimo, ed è anche un testo molto coraggioso, perché parlate di tematiche che non sono scontate, no? Molto spesso una delle tante critiche che si muovono al festival è che si parla sempre delle canzoni d'amore o di varie certo. tematiche. La vostra è molto diversa e racconta una storia anche molto intima. Qual è la storia di questo pezzo? La storia di questo pezzo è autobiografica fondamentalmente. L'ha scritto Matteo il pezzo. Originariamente le scriviamo sempre da soli, poi li finalizziamo insieme in realtà. Ci mettiamo tutte e due mano alla fine, insieme ai ragazzi dell'etichetta ovviamente. E la storia di questo pezzo è la storia di un ragazzo, che era Matteo in questo caso, che nonostante tutte le difficoltà, tutti gli ostacoli che si trova davanti, riesce comunque a trovare una sorta di felicità, no? Una sorta di spensieratezza nella vita. E io infatti tutte le volte che la gente mi dice è un testo molto toccante, io in questa canzone in realtà ci vedo molta allegria, ci vedo molta felicità, ci vedo molta spensieratezza. La spensieratezza che ai giovani, ahimè, purtroppo al giorno d'oggi è sempre più tolta, secondo me. La spensieratezza che serve soprattutto quando sei giovane per affrontare le sfide che ti si pongono davanti, e al giorno d'oggi non è facile averla. E un po' racconta appunto la storia di Matteo messa sotto i panni di Luca, perché ovviamente Matteo, essendo una persona timida, essendo che si vergogna di un po' della sua interiorità e di quello che è, nasconde dentro, ha messo il nome mio, così diciamo okay. non ci sono dubbi, ecco, non ci sono problematiche. Quindi hai impersonato la resilienza di Matteo, insomma, in un qualche modo, no? La sua capacità di andare oltre appunto le situazioni difficili. Ma sì, vorremmo che sia un po' quella di tutti, ecco, vorremmo trasmettere questa cosa a tutti, cioè vorremmo che tutti un po' si ritrovassero in Luca, non tanto con i problemi che ha, ma con la forza che ha comunque di essere felice, di stare bene. Perfetto, allora prima abbiamo parlato anche di un altro pezzo, un pezzo che si chiama Non passano gli aerei. Io lo ascolterei e poi ti chiederei di raccontarcelo un po'. Ma come no? E non passano gli aerei, la gente gira incazzata col mondo aspettando che giri, e che fosse per me tornare a casa a piedi, e non bevo da ieri, e l'umore sta a pezzi, non passano i treni, finisce tutto domani, soltanto se ci credi. E non passano gli aerei, vorrei vedere un amico da mesi. Non passano i treni, e danno sempre le stesse canzoni. Colpa dei migranti, dei novax, degli alieni, e di chi parla la sera nelle televisioni, pieno di opinionisti con le proprie ragioni. Non me ne frego un cazzo delle vostre opinioni. Scusa, ma alla fine non ci sono più stasera. Sono entrato in confidenza col mio mood da quarantena. Ubriacarmi sulla sedia e non mi frega se ti manco. Dopo due mesi con me stesso ho capito che sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi. Cos'è dipende da noi. Se ami l'Italia, permettetemi di dirlo, mantieni le distanze. E non passano gli aerei, e sono sempre in pigiama da mesi, e si affollano i balconi, e non sapevo che siamo vicini, usciremo per tornare alle nostre abitudini, o forse è meglio chiamarle prigioni, ora sei chiuso dentro, sarei bloccato fuori. Scusa, ma alla fine non ci sono più stasera, sono entrato in confidenza con il mio quarantena, ubriacarmi sulla sedia e non mi frega se ti manco, dopo due mesi con me stesso. Scusa, ma alla fine non ci sono più stasera. stasera. Sono entrato in confidenza col mio mood da quarantena. Ubriacarmi sulla sedia e non mi frega se ti manco. Dopo due mesi con me stesso ho capito che mi basta. Un pezzo anche questo bellissimo, ci è piaciuto davvero tanto. E dicevi è il primo che avete fatto assieme, se non sbaglio. Sì, è un pezzo che in realtà stavamo lavorando a un altro pezzo da far uscire. Era che doveva uscire un altro, che poi uscirà nei prossimi mesi, presumibilmente. E era appena iniziata la quarantena, io ero a Roma, come ti dicevo prima, ed è uscito. E Luca dov'era? Pezzo. No, io Luca ero a Roma, perché questo. Sì, scusa, e Matteo dov'era? Matteo era a Ferrara, perché lui studia all'università Ferrara. Ok, quindi lui è rimasto qua in Emilia. Io ero a Roma e mi girava in testa sta cosa che non passavano gli aerei, perché effettivamente la cosa più strana da quando siamo entrati in lockdown, io che abito non troppo lontano dall'aeroporto di Ciampino, era che non passavano più gli aerei, non atterravano più. E da lì è un po' nato tutto. Mi ero appena lasciato con una storia, con una ragazza, e quindi dopo è nata questa canzone in questo modo. Ho combaciato un attimo queste due cose. Perfetto, ma di progetti futuri invece dicevi ce n'è già qualcuno, insomma. Ce n'è già qualcuno. Allora, per ora ci soffermiamo su Io sono Luca, perché comunque essere stati al Festival di Sanremo significa come far uscire di nuovo un nuovo singolo, no? Perché comunque ti dà una visibilità enorme che prima ovviamente non c'era. Quindi è come se quasi Io sono Luca fosse uscita adesso, no? Più che il 4 dicembre, la data di release effettiva della canzone. E quindi per ora ci vogliamo concentrare su Io sono Luca. Sicuramente nei prossimi mesi e per l'estate vi terremo compagnia, perché usciranno dei pezzi nuovi. E poi dopo si penserà anche a due album che sono in programma. E si penserà a quando farli uscire, come farli uscire. Due album perché avete scritto già così tante canzoni assieme? O ne avete già in mente così tante? No, di canzoni scritte ce ne sono veramente tante. Okay. Di canzoni scritte ce ne sono veramente tante. Però è proprio previsto dal contratto, quindi ecco. Ok, quindi aspettiamo un po', e intanto sappiamo che quest'estate ci arriva già qualcosa di nuovo. E poi appunto questi due album. Quest'estate magari anche dei live, lo speriamo davvero tanto. Ma magari. Esatto, ci piacerebbe. Sì. Beh, io invece ti chiederei anche un'altra cosa, perché abbiamo parlato un po' appunto di questo progetto dell'ultimo anno, però ovviamente mi hai detto che avete fatto anche il conservatorio prima, insomma, ci sono la musica, immagino che sia arrivata prima nella vostra vita. Molto prima. Qual è allora la storia dell'incontro di Luca e Matteo con la musica? Ma sai, è una storia che io ho sentito e risentito anche in altre persone, nei percorsi che hanno fatto loro nella loro vita, con le loro passioni. Io in realtà nasce tutto da una chitarra che mio fratello ha trovato in garage. Ha cominciato a frequentare il corso di chitarra, e in questo corso di chitarra c'era anche una ragazza che a me piaceva. Ma sei sempre con qualche ragazza che ti piace nelle tue nelle canzoni? Sì, ai tempi non ero, ma neanche adesso tra l'altro, non sono mai stato un grande Latin lover, sono sempre stato quello che un po' più subisce. Praticamente c'era questa ragazza che mi interessava, che mi piaceva, e allora lì ho deciso di andare anch'io a frequentare il corso di chitarra. Con i primi 4 accordi che ho imparato, io ho scritto la prima canzone per questa ragazza, e poi Matteo di conseguenza, prima all'inizio lui si è dato più all'interprete, a interpretare le canzoni di altri, poi dopo è venuto anche lui nello scrivere canzoni qualche mese dopo, qualche anno dopo, e da lì in poi non abbiamo più smesso di scrivere canzoni. E invece come influenze musicali, c'è qualche artista in particolare che è entrato nella vostra musica, diciamo? Ma allora, sicuramente sono diverse tra me e mio fratello le influenze musicali. Mio fratello è più legato a un cantautorato e alla musica pop. E lui è molto appassionato soprattutto di cantautorato. E penso che si veda in Io sono Luca, nella canzone, insomma, in un testo del genere penso che si possa notare. Comunque anche l'autobiografia che ha scritto. Anche la citazione di tale Battisti che fa alla fine. Io invece sono un po' più legato a un panorama sì, sempre cantautorale, ma diciamo non così popolare, diciamo, non così, magari un po' più di nicchia. Forse quello più popolare che mi ha colpito di più sicuramente è Francesco Guccini. Io non smetterò mai di dire che secondo me lui è uno di quelli che negli ultimi 50 anni ha avuto una penna magnifica nello scrivere le canzoni. E Non passano gli aerei, anche quella canzone lì, mi ci rivedo molto, anche uno stile di cantautorato moderno, un Willy Peyote, un Fulminacci. Quindi secondo me sono contento perché sta anche al passo coi tempi, ecco, diciamo. Esatto, e anche col festival, c'erano anche loro sul palco dell'Ariston. Esatto. Quindi esatto. Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata, ti chiedo anche di salutarci Matteo, e poi dopo a nome di tutti e due ti chiederei se hai voglia di scegliere una canzone che concluda, dopo aver ascoltato i vostri due singoli, una canzone che concluda questa nostra chiacchierata, e poi dopo ci salutiamo, insomma, e anche se vuoi lasciare un messaggio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Come no, beh, una canzone che conclude, direi che è una canzone che ci unisce a tutti e due, che l'ascoltavamo sempre quando eravamo piccoli in casa e che forse è stata l'inizio della nostra musica, che è Un'avventura di Lucio Battisti, straordinaria canzone. Vi mando ovviamente un saluto grosso a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici che ci stanno sentendo in questo momento e che ci stanno ascoltando. Tenetevi pronti perché usciranno tante nuove altre cose. Adesso andate però ad ascoltare Io Sono Luca, streamatela e ascoltatela e condividetela più che potete, e se avete voglia fateci sapere quello che ne pensate. Perfetto, allora io ti ringrazio, ricordiamo che comunque Io Sono Luca è già al top delle classifiche degli ascolti, quindi insomma avete già raggiunto buone vette, ma noi continuiamo a passarla anche qua in radio, quindi ti ringrazio moltissimo e ci sentiamo presto. Grazie a voi. Sarà un'avventura, questo amore fatto solo di poesia, tu sei mia. Sempre vivrà, non sarà un'avventura, non è un fuoco che col vento può morire, ma vivrà quanto il mondo, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorati.